in primo piano. Buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei settimanali. E quindi, visto che appunto oggi è domenica e in edicola troviamo il supplemento domenicale del Sole 24 Ore, cominciamo come sempre da quello e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Il Popolo. Torno a casa disumano rispetto a quando sono uscito, perché mi sono mescolato col popolo. È Seneca, in una sua epistola, a fare questa confessione, che potrebbe essere tacciata di snobismo o di arroganza. Era lo stesso scritto latino nella tragedia Fedra a lanciare era lo stesso scrittore latino scusate nella tragedia Fedra a lanciare un'altra scudisciata. Il popolo prova un gran piacere nel consegnare il potere a una persona turpe. Certo, l'isolamento altezzoso di alcuni che si considerano migliori o superiori agli altri è un atteggiamento che può essere rubricato sotto il vizio capitale della superbia. Cristo al riguardo è provocatorio, mescolandosi a prostitute, marginate, gente di malaffare. Detto questo, non bisogna però ignorare che la massa è spesso cieca, disumana, proprio dal latino inumanior, come scriveva Seneca nel passo sopracitato, procede trascinata dagli stereotipi pubblicitari, diventa anche perversa e crudele, si lascia manovrare, è corrotta e corruttrice. Per stare al mondo classico, il poeta Orazio non esitava a definire il popolo romano una belva dalle molte teste. E allora un pizzico di solitudine e di critica, un ascolto della coscienza personale, un ritorno a casa nel silenzio non farebbero male, soprattutto in questo periodo estivo di sosta. E questo era il breviario di Gianfranco Ravasi, che sicuramente da meditare, perché come ammette lui stesso, la frase che ha scelto potrebbe essere tacciata di vizio capitale, di uno dei vizi dei capitali, che è la superbia. Ma la copertina vera e propria è una lunga recensione di Fulvio Erace, che è storicamente il critico di architettura della Domenica del Sole 24 Ore, su un libro appena uscito per l'associazione Secco Sguardi di Bergamo, intitolato La vita dei tetti e il castello visconteo di Pandino. È un libro di Marco Ermentini che parla soprattutto appunto di come dei quelli che una volta venivano definiti conciatetti, coloro che riparano i tetti. Il recupero deve essere discreto e attuato solo se necessario, evitando costosi ponteggi e recuperando il più possibile i coppi originari. Ed è interessante perché ogni ristrutturazione è un po' come ogni traduzione, un po' un tradimento, a maggior ragione quella dei tetti, e da qui appunto un testo di architettura antico analizzato però da un critico di architettura contemporaneo. Molto interessante il pezzo di Cristina Battocletti che, partendo dal documentario Safari del regista austriaco Ulrich Seidel, ci racconta questi nuovi, quelli che vengono definiti i nuovi colonialisti a caccia in Africa. Questo regista infatti ha esplorato quella che Cristina Battocletti e il regista stesso definiscono un'aberrazione dell'Occidente, cioè il turismo venatorio. Volevo capire, dice il regista, racconta il regista Cristina Battocletti, volevo capire perché la gente uccide gli animali. Il processo emotivo è simile a un atto sessuale, di eccitazione prima e di liberazione poi. Poi molto interessante l'articolo di Carlo Carena, che invece parte da una nuova edizione di Tutti i Moralia di Plutarco, un'edizione appena uscita per Bompiani, consigli pratici per dire no. L'edizione di Tutti i Moralia, la prima completa italiana, con testo a fronte, un'opera adorata per esempio dal grande filosofo francese Michel Montaigne. Un'altra recensione divertente, chi mi segue un po' sa che ho questo amore per i gatti, è un articolo, una recensione di Lorenzo Tomasin a una raccolta di scritti di Cesare Cases, che era nato nel 1920 ed è morto nel 2005. In cattedra ci metto il gatto, perché in questa raccolta di saggi appunto si chiama Due gatti accademici, e tra l'altro spesso i filosofi prendono spunto dai gatti, forse perché hanno sempre l'aria così meditativa, forse perché come tutti gli animali, stando zitti, non si prestano a interpretare interpretazioni sbagliate del loro pensiero e quindi possiamo attribuirgli i pensieri che vogliamo. La lettura del Corriere della Sera affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana è Umberto Manzo. All'interno vi segnalo una lunghissima conversazione di Hans Ulrich Obrist con Ai Weiwei, perché l'artista cinese arriva al Festival del Cinema di Venezia in concorso con il film Human Flow, un colossal sulle migrazioni girato in 22 paesi attraverso 40 campi profughi, realizzando 600 interviste e 1000 ore di girato. La pellicola ha una doppia valenza, documenta guerre, carestie, malattie, shock climatici e crisi dei rifugiati, l'umanità appunto in fuga, ma allo stesso tempo invita alla riscoperta di valori come la fiducia e la compassione. E sono appunto 4 pagine di conversazione bellissime sulla lettura. E poi, partendo da un libro di Susan Cain che si chiama Quiet Power, appena tradotto da Bompiani, Viviana Mazza da New York ha parlato con l'autrice La rivincita degli introversi. Mark Zuckerberg e Beyoncé, Emma Watson e Barack Obama, la saggista Susan Cain ribalta gli stereotipi più consolidati, il successo della Quiet Revolution in un mondo rumoroso. Vi segnalo poi un altro bellissimo articolo, secondo me, di Enrico Rotelli, che parte in questo caso da un libro che non è ancora stato tradotto, ma speriamo venga tradotto presto, che si chiama Void Star di Zachary Mason, che è uno studioso, è entrato all'università a 14 anni, a 19 ha cominciato il dottorato, quindi sicuramente un quoziente, un ragazzo precoce o comunque con un quoziente intellettivo e con una capacità di analisi e di studio più alta della media. La sua teoria è che la fantascienza, che naturalmente si è occupata, ma anche da moltissimi anni, di quello che avrebbe potuto essere l'intelligenza artificiale, pensate a tutti i libri della serie di Isaac Asimov, secondo questo scienziato in realtà la fantascienza non ha capito niente dell'intelligenza artificiale. Da scienziato informatico e scrittore, alle sue idee piuttosto nette le ha raccontate appunto a Enrico Rotelli sulla lettura. Un'ultima segnalazione, due ultime segnalazioni dalla lettura. Una è un intervento di Paola Turci, la cantautrice che sapete ha avuto un grandissimo successo con il suo ultimo album, e racconta, perché c'è un anniversario importante, che è quello della Febbre del Sabato Sera, un film che uscì nel 1977, e lei racconta: ero un adolescente, il film Contravolta mi ha svelato un mondo, le 10 colonne sonore preferite della cantautrice Paola Turci. L'ultima segnalazione, vi dicevo, parte da un festival che si chiama Festival dei Sensi, che si terrà in Puglia il 22, 23, 24 agosto a Martina Franca, Cisternino e Loco Rotondo. L'articolo è di Anna Chiara Sacchi, che ha intervistato Giulia Sissa, storica della cultura delle idee, insegna a Los Angeles ed è ricercatrice a Parigi. Su che cosa in particolare verte l'intervista? Un argomento secondo me interessantissimo, che è quello dell'immagine che abbiamo di noi stessi, o in generale il corpo, e soprattutto l'ossessione molto contemporanea della forma fisica perfetta, il corpo terribile ossessione. Questa studiosa, che parlerà appunto a questo Festival dei Sensi, parlerà di questo mito della perfezione fisica, che qui anticipa: veniamo al mondo senza nessuna possibilità di scegliere il nostro aspetto, dunque che male c'è a volerlo cambiare? Trucco, palestra, bisturi. Ci fermiamo un attimo per una pausa sul traffico. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Abbiamo visto gli articoli più interessanti, secondo me, secondo la mia modesta e veloce scelta, sulla domenica del Sole 24 Ore e sulla lettura del Corriere della Sera. Ora vi segnalo dal Foglio, perché purtroppo questa è stata la settimana dei terribili attentati a Barcellona, vi segnalo un articolo che è uscito sul Foglio di ieri, che è di fatto un settimanale, di Giuliano Ferrara, che si intitola Ciò che non capiamo: per loro infliggersi la morte è felicità. Il riferimento è a questi giovani, perché sapete che il più giovane aveva 17 anni dei 4 attentatori morti e il più anziano, tra virgolette, 24, che hanno appunto portato a termine l'attentato a Barcellona. Sbaglia lo scrittore Javier Cercas, secondo Giuliano Ferrara, e tutti i tentativi di spiegazione che non partono dalla Sharia, che appunto appunto implica che con la morte poi si acceda a un universo di felicità, la famosa storia delle vergini, eccetera, eccetera, e questi sono tentativi di spiegazione inutili. Sempre dal Foglio, un lungo articolo di Fabiana Giacomotti, che ha scritto molti libri sulla moda, che fa un excursus sulle prossime mostre dedicate alla moda. So che magari non interessano a tutti, però in realtà molto spesso la moda è un modo per ripercorrere le evoluzioni di una cultura o di una società, e quindi Dior a Parigi con la mostra che celebra i 70 anni di Dior, Gianfranco Ferré, il grande stilista italiano che fu tra l'altro il primo italiano a diventare direttore creativo della Maison Dior, a Torino una rassegna all'anno al Metropolitan di New York, iniziative tutte baciate dal successo, i musei fanno a gara per accaparrarsi i pezzi migliori. Passiamo a Internazionale, che dopo la pausa, diciamo, del Ferragosto, sapete che in estate e poi a cavallo di Natale, Capodanno, Internazionale salta un numero, o meglio ha un numero doppio, ma da venerdì c'è in edicola il nuovo numero e in copertina ci sono le teste calde, cioè da una parte Kim Jong-un, il dittatore della Nord Corea, e dall'altra Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti. Su Donald Trump vi segnalo uno degli editoriali brevi che trovate su Internazionale, tradotto al New York Times, che si intitola Trump sta con l'estrema destra. Naturalmente un po' lo spunto che Trump stia con l'estrema destra non sarebbe una novità, ma le sue reazioni a quello che è successo a Charlottesville con i suprematisti, il raduno dei neonazisti e dei suprematisti bianchi che protestavano per la rimozione di una statua risalente alla guerra di secessione, la statua del generale confederato Robert Lee, che appunto verrà rimossa da questo parco di Charlottesville, secondo il New York Times è stato il momento per dimostrare ancora una volta che Trump non riesce a staccarsi da questi suoi elettori di estrema destra. Molti gli aggiornamenti, visto che la copertina è dedicata a loro, appunto alle teste calde, al confronto per ora soltanto a parole di fatto tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. E poi sempre dal New York Times, a pagina 41 di Internazionale, trovate un bel ritratto di Marco Minniti, il nostro ministro degli interni, intitolato Il signore delle spie vuole fermare i migranti. Il ministro dell'interno ha una lunga esperienza nei servizi segreti ed è l'ideatore del discusso codice di condotta per le ONG. Ora cerca un'intesa con la Libia sull'immigrazione. E il New York Times racconta appunto di come comunque, che piaccia o non piaccia, che sia criticabile o no, Marco Minniti appunto ha firmato questa svolta nelle decisioni che l'Italia, il governo attuale italiano, prende per contrastare l'immigrazione clandestina. Dall'Economist, sempre su Internazionale, nella sezione dedicata alla scienza, un articolo intitolato L'Europa meridionale deve abituarsi alla siccità. La crisi idrica di quest'estate non è un evento eccezionale, spiega l'Economist. Con l'avanzare del cambiamento climatico nei paesi dell'area mediterranea, i lunghi periodi secchi diventeranno la norma. Poi vi segnalo, a proposito di scienza, il numero di agosto di Focus. La copertina è dedicata al fatto che abbiamo, grazie a abitudini di vita più sane, all'alimentazione, naturalmente alle cure scientifiche, si sta allungando la vita media. La domanda che Focus si pone è: siamo davvero sempre più giovani? Ma all'interno, più che questo, vi segnalo un articolo sui fulmini. Colpi di fulmine sviluppano l'energia di una centrale nucleare e le radiazioni di un buco nero sono gli eventi più potenti e misteriosi dell'atmosfera. E come sempre ci sono, come sempre nella tradizione di Focus, ci sono molti schemi, molti disegni che cercano di spiegare anche a chi meteorologo non è come nasce un fulmine e che cosa appunto quanta energia sprigiona. E poi, visto che è iniziato con un anticipo ieri sera, poi ci sono le partite oggi, il campionato di calcio, molto interessante questo articolo sul comportamento dei tifosi se la tribù fa gol. L'autore della scimmia nuda, cioè Desmond Morris, spiega le vere ragioni del successo di questo sport, ci riporta al nostro passato di cacciatori. Secondo appunto Desmond Morris, segnare un gol è un po' come uccidere una preda. E poi un altro articolo molto interessante, sapete che noi diamo l'anestesia per scontata, anestesia locale o generale, in realtà sono solo due secoli che quando ci si sottopone a un intervento chirurgico si ha questa opportunità di essere anestetizzati per provare il meno dolore possibile. E così Focus ci racconta, quasi due secoli dal suo primo uso, è una tecnica che funziona quasi alla perfezione, ma di fatto non si sa perché naturalmente, infatti la fase dell'anestesia è delicatissima, potrebbe essere molto breve il passo dall'anestesia, che naturalmente permette, se è generale, di risvegliarsi a non essere più capaci di risvegliarsi. Da qui appunto è una vera e propria specialità medica quella dell'anestesiologia. E poi un altro articolo interessantissimo che si intitola "Chi impara una lingua campa 100 anni". E le ricerche continuano a dimostrare che il cervello di chi conosce almeno due idiomi è più sano, più grande e più connesso, e non è mai tardi per studiarne uno, se appunto se ne conosce una sola o due e se ne vuole, si vuole aggiungere qualche altra conoscenza. Sul campionato di calcio, al campionato di calcio sono dedicate anche le copertine del Corriere della Sera, che in realtà ha una palla quadrata, e la domanda è: sarà una palla? Riparte il calcio. L'editoriale è di Beppe Severnini, il direttore di Sette, intitolato "Il pallone è un romanzo popolare, ecco perché ci piace nonostante tutto". E dice Severnini, che è un lo sappiamo perché ha scritto anche dei libri su questo, è un sfegatatissimo fan dell'Inter. Scrive nell'ultima parte: "Noi chiamiamo il calcio tutte queste cose, cioè il fatto che se ne possa parlare con chiunque, sempre, le sappiamo, ma subito dopo Ferragosto, rito nel rito, le rinnoviamo. Abbiamo bisogno del nostro mantra rotondo, della luce del televisore nella stanza scura, dell'enfasi dei telecronisti. Abbiamo bisogno delle attese del giorno prima, delle discussioni del giorno dopo, dei messaggi WhatsApp per sfottere o per consolare. Abbiamo bisogno di disegnare formazioni mentali, abbiamo bisogno di parlarne coi figli giovani o col papà anziano, perché il calcio è l'album dei ricordi e l'albume di tante famiglie italiane, un ingrediente che le tiene insieme. Non ci annoieremo quest'anno". E poi anticipa un po' degli articoli all'interno, in particolare quello di Tommaso Pellizzari, che poi firma la storia di copertina dalla pagina 16 alla pagina 22. Sempre da Sette vi segnalo un'intervista di Anna Maria Speroni a Vittorino Andreoli, che è uno degli psichiatri più famosi d'Italia, perché ha scritto molti saggi, anche alcuni romanzi, e interviene spesso in televisione, un po' come quei magistrati presenzialisti. Lui è uno psichiatra presenzialista, e il titolo di questa intervista: i disturbi della mente sono tutti curabili, o quasi, perché le terapie brevi funzionano e le ultime scoperte della scienza sono meravigliose, ma i farmaci sono ancora grossolani e il rapporto medico-paziente frettoloso. Uno psichiatra con mezzo secolo di esperienza spiega, rassicura, e già che c'è, si arrabbia con l'Italia narcisa e masochista. Facciamo una piccola precisazione, cioè la psichiatria in teoria si occupa della parte farmacologica della cura della malattia mentale, poi ci sono tutti gli altri tipi di terapia, le cose naturalmente possono combinarsi, tra l'altro Andreoli ha sposato una psicanalista freudiana, quindi sa sia di psicanalisi che di psichiatria, che ovviamente di psicologia, che invece è la scienza che studia il comportamento delle persone. Io non sono così ottimista come Vittorino Andreoli, però non sono né laureata in medicina né psicanalista, quindi spero, per carità, che abbia ragione lui, cioè che le malattie mentali siano tutte presto, o siano già adesso, curabili. Ultima segnalazione da Sette: un reportage di Luca Bottura dalle feste dell'Unità. Alla festa dell'Unità, senza l'Unità, disuniti e nostalgici. In particolare Luca Bottura è andata a quella di Villalunga di Casalgrande, vicino a Reggio Emilia, che è la festa comunale del Partito Democratico più grande d'Italia, e questo racconto appunto spiega anche tanto della crisi del PD e delle divisioni interne del Partito Democratico. Naturalmente Sport Week della Gazzetta, il settimanale della Gazzetta, è tutto dedicato al campionato, speciale Serie A, sono addirittura 100 pagine con le schede di tutti i giocatori, ma è interessante soprattutto questo articolo che si intitola Football Social Club: dai giocatori alle società ai tifosi, come Facebook e le altre community stanno cambiando il calcio. Dedicata al calcio anche la copertina del venerdì di Repubblica, quella sporca ultima maglia, il riferimento è alla maglia con il numero 10 di Pelé, la indossava Pelé il 28 agosto di 40 anni fa durante la partita che chiuse la sua carriera. L'uomo che lo marcò nel match l'ha conservata in una cassetta di sicurezza senza mai lavarla. Lo abbiamo ritrovato, e questo racconto ce lo fa Emanuela Audisio, la giornalista che a Repubblica si occupa di sport ed è bravissima, quindi questo è un po' l'angolo, lo spunto, la scusa per parlare del campionato che è appena iniziato. Vi segnalo anche una storia molto interessante raccontata da Riccardo Michelucci, pagina 23 del venerdì. La tifa a tutta velocità, il sogno a fumetti del principe saudita, perché appunto il direttore, un principe saudita, il direttore di questa, l'ideatore di questo fumetto, la tifa, si chiama Fahd Al Saud, e è già abbastanza incredibile che appunto si dedichi un libro a una donna in un paese dove, sapete, no, le donne non possono nemmeno guidare. Lui però ha 34 anni, quindi forse appunto l'età lo aiuta, e quindi con questa eroina e questa graphic novel, questo fumetto, racconta quella che lui stesso definisce un'eroina del futuro, perché al momento, dice, le nostre donne sono ancora oppresse, ma si ribelleranno all'oppressione. La copertina di Panorama invece è Yes We Cane anziché Yes We Can, e si fa riferimento a un servizio che poi c'è all'interno, molto divertente, anche con un reportage, con foto altrettanto curiose fatte da Diana Bagnoli, la fotografa Diana Bagnoli, che vede esseri umani e animali insieme. E la copertina che ha è un fotomontaggio di un cane con un bel taglio da parrucchiere, sembra appena appunto uscito dal parrucchiere. Tutto è più precario, i rapporti di coppia, il lavoro, gli ideali, solo il nostro legame con gli animali domestici non conosce crisi, anzi la pet economy cresce con cifre da capogiro. In questa assenza di certezze, cani, gatti, pappagalli e conigli sono il nostro bene rifugio, e il 26 di agosto ci si prepara a celebrare la giornata mondiale di Fido. Era però l'ultima segnalazione per oggi, poi trovate tutto il servizio, vi dicevo, all'interno, a partire da pagina 39 di Panorama. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, ci risentiamo domani mattina per la rassegna stampa dei quotidiani italiani.